puntata specialissima di Non ci sono più le mezze stagioni, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Il titolo? Ritratto di famiglia. Come sta cambiando infatti il nucleo portante della società negli ultimi 30 anni, con i matrimoni che calano, i divorzi che si impennano e nuove dimensioni familiari che prendono corpo, dibattiamone dunque a Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con tanti ospiti, come sempre sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.